Oggi, primo giorno di tennis a Miami. Erano 4 mesi che non giocavo, ho preso una bella fiammata. 6-2, 6-2. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Abbiamo pagato, credo, un po' di tensione in alcuni giocatori, perché ogni volta che conquistavamo palla nel primo tempo, dopo 2 secondi la cedevamo, ci voleva un pizzico di personalità in più. Dopo ci siamo tolti qualche ansia e quando abbiamo iniziato a forzare abbiamo dovuto andare uomo contro uomo. Abbiamo creato la possibilità di pareggiare e anche di vincere la partita. Buon punto, abbiamo regalato il primo tempo, nel secondo abbiamo messo in campo quelle che sono le nostre caratteristiche, aggressività, umiltà, fame, voglia di sacrificarsi, voglia di correre, e l'abbiamo messo in difficoltà. Peccato per il primo tempo, però ripartiamo dal secondo, che era lo spirito che ci ha contraddistinto all'europeo, quello deve essere il punto di inizio. Diciamo che quando sono entrati sia io che Ciro volevamo a tutti i costi cambiare la partita, non ci stavamo a perdere, ma come non ci stava del resto tutta la squadra. Abbiamo cercato di dare tutto quello che avevamo, sia anche per pochi minuti, e per fortuna abbiamo trovato un pareggio che è molto importante. Andata così, come avete visto ieri sera, bene o male, a seconda di come si voglia vedere il bicchiere, se è mezzo pieno o mezzo vuoto. Mezzo pieno, perché il pareggio con la Spagna ci tiene vivi e tiene assolutamente aperto il discorso della qualificazione al Mondiale del 2018. Mezzo vuoto, perché la prima ora a Torino oggettivamente è stata inquietante. 800 24 0024 per chiamare e intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Bene, sai, guarda, mi sono appena ripreso, perché è da ieri sera, sai cosa ho provato io ieri sera durante la partita, alla fine della partita, questa mattina quando mi sono svegliato? Ho provato una fortissima nostalgia di Antonio Conte, suo calcio isterico, feroce. Interiorizzi troppo. Ma lui ci aveva illuso di essere forti, e non lo siamo. No, lui aveva fatto dei piccoli capolavori, uno soprattutto nel match contro la Spagna, giocando una partita perfetta, sfruttando le debolezze dell'avversario. Ieri non è stata una roba poi così diversa, no, è stata una roba diversa perché per un'ora siamo stati in balia, però sinceramente, insomma, non è, io dopo quella partita con la Spagna non pensavo che noi fossimo nettamente superiori alla Spagna, pensavo che avevamo giocato la partita perfetta, cosa che ieri non è successa. Però a giugno, dopo la partita con la Spagna, noi almeno per 5 minuti abbiamo pensato di poterlo vincere l'europeo. Ieri sera, come raccontano i colleghi che stavano a bordo campo, alla mezz'ora del primo tempo Ventura chiedeva quando finisce. Sì, no, questo è oggettivo. A me ha ricordato un po' Juve-Bayern, nel senso l'andata, che fu una partita perfetta degli avversari della squadra italiana, specifico della Juve, e poi però è stata una partita che la Juve ha rimesso in piedi con grande orgoglio, da 0-2 a 2-2, la ricorderete, con addirittura la possibilità, la sensazione di poter mettere in difficoltà, e con quel senso quasi di ci fossimo svegliati prima, poi non è sempre così, no? Di rimpianto, che è un po' anche nella partita di ieri, perché alla fine quando la partita è diventata qualcosa di diverso, quando è diventata più nervi, più uno contro uno, quando è uscita dallo spartito che gli spagnoli ci avevano imposto, è diventata improvvisamente una partita equilibrata. Sì, io credo in realtà, Pier, che molte delle critiche che vengono fatte, ieri sera i tifosi erano scatenati durante la partita, critiche che vengono fatte a Ventura siano ingenerose. Cioè, io penso che il problema non sia Ventura, il problema è che abbiamo avuto ieri la prova plastica che il valore aggiunto della nazionale all'europeo era Antonio Conte, e non ce n'è un altro così, perché in Italia non ce n'è un altro capace di creare quel gruppo lì, di fare quel calcio lì, che probabilmente ci aiuta a ridurre le distanze. Sì, poi attenzione, perché in realtà dipende sempre se uno valuta il movimento calcistico nel suo complesso o la contingenza. Se guardiamo la contingenza, è vero che noi ieri siamo stati nettamente inferiori alla Spagna, altrettanto vero che poi dal punto di vista delle palle gol e degli episodi della partita, addirittura possiamo recriminare per un discorso di espulsioni, comunque la Spagna è passata in vantaggio con un errore incredibile del nostro portiere. Cioè, bisogna sempre un attimo capire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della scuola calcistica spagnola contro la scuola calcistica italiana e del livello complessivo generale delle due squadre, non c'è dubbio, la Spagna è più forte di noi. E ieri sai che gli spagnoli oggi hanno messo in prima pagina di averci dato una lezione di calcio. Sì, ma è anche giusto, insomma, è anche giusto. Poi è nella loro filosofia, diciamo, sovrastimare alcuni concetti come il possesso palla, e comunque hanno ragione. Non voglio girarci attorno, hanno ragione perché sicuramente sono più forti di noi. Però in quel famoso Spagna-Italia di Conte era venuta fuori la nostra capacità straordinaria di trovare delle contromisure in una partita secca, giocando una partita eccezionale. Io, ribadisco, non mi ero illuso dopo quella partita che gli spagnoli fossero più scarsi di noi. Poi Lopetegui gli ha ridato benzina, energia, qualche variante tattica, qualche nome nuovo che sicuramente sta rimettendo in circolo un po' di entusiasmo e di qualità, perché la Spagna degli europei era una squadra un po' logora. Però voglio dirti, non c'è tutta questa clamorosa differenza. Non è che a giugno eravamo nettamente più forti noi e adesso siamo nettamente più deboli. È che loro sono più forti di noi, però ci sono delle situazioni, delle circostanze, delle valutazioni di carattere tattico, in questo chiaramente Conte ha fatto un lavoro straordinario, che possono consentire di trovare i loro punti deboli e di colpirli. E questo è quello che è successo in una partita secca all'europeo, bellissima, che rimane secondo me una delle partite più belle dell'Italia, se non la più bella degli ultimi anni. Ieri è stato qualcosa di molto diverso, ma alla fine ieri abbiamo pareggiato, ribadisco, una partita nella quale non è che poi abbiamo avuto 23 palle gol, e quindi se la valutiamo nella contingenza della partita non è così catastrofica, non è così disastrosa. Fosse stata agli europei una partita del genere, andavamo ai supplementari o ai mondiali, andavamo ai supplementari. Dal punto di vista della prospettiva e del movimento calcistico sono molto più avanti, ma questo insomma in qualche modo lo sapevamo già, e quella vittoria all'europeo forse ci aveva illuso per qualche minuto, ma a me personalmente non mi aveva cambiato l'idea. Insomma, c'è Iniesta, il giocatore che noi non abbiamo. Tra l'altro non avremo nemmeno Montolivo in Macedonia, perché torna a casa. Non avremo Pellè, perché come saprete è stato cacciato dopo l'episodio del mancato saluto a Ventura ieri nel momento della sostituzione. Scrive un amico: forse si è esagerato con Pellè. Io credo di no, però aspettiamo anche di sapere che cosa ne pensate. 800 24 00 24, il traffico, poi torniamo. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. Niente impossibile, altrimenti sarebbe tutto troppo semplice. Se qualsiasi previsione e qualsiasi situazione impari non avvenisse il contrario, sarebbe secondo me brutto, si toglierebbe proprio il sale della vita, l'incertezza, il fatto comunque di lavorare per cercare di battere il più forte, cercare di lavorare per sovvertire il pronostico. Io penso che questa è la bellezza del calcio, ma anche nella vita. Nostalgia, nostalgia canaglia, che ti prende proprio quando non vuoi. La Spagna, a detta di tutti, è stata sempre data come favorita, però io credo che la partita di stasera ci ha detto diverse cose. Ci ha detto che se vogliamo possiamo, ci ha detto che se andiamo ad analizzare quello che siamo in grado di fare e possiamo fare molto di più di quanto è stato fatto stasera, c'è la possibilità di essere anche protagonisti. Dobbiamo avere un passo alla volta e, ripeto, questo è un risultato che mi sta benissimo perché dà la possibilità di far fare delle riflessioni a tutti. Abbiamo anche aperto il sondaggio su Twitter, venite a cercarci, @ tutti convocati. Avete anche voi questa sensazione di nostalgia di Antonio Conte, del suo calcio per la nazionale, sì o no? Pierluigi Pardo no, io sì. Maurizio Crosetti, ciao. Eccolo, buongiorno. Beh, mi avete fatto venire in mente che forse questo sondaggio potreste chiamarlo Twitti Convocati. Spettacolo. E un'altra cosa, oggi giochiamo con le parole. Nostalgia canaglia. Sì. Mi ha fatto venire in mente più che altro nostalgia chinaglia, visto che fu chinaglia a sfanculare, si può dire, per radio. Sì, sì, si può dire. Poi l'hai detto, quindi. Il povero zio Uccio Valcareggi ai mondiali del 74, come... Pelle, mi vergogno quasi ad averlo accostato a Giorgione, chiedo a lui perdono nell'alto dei cieli, avrà misericordia di me, se ho accostato a comunque un grande centravanti della storia del calcio, un poveretto. No, ma però invece chiamarlo... io proseguo sul parallelo, perché in tanti si chiedono... In nazionale forse ha fatto più gol Pelle di Chinaglia, adesso lo controlliamo. Dici? Ho capito, ma rimane un poveretto lo stesso. Sono d'accordo, per carità, poi Chinaglia è stato... personaggio mitico, proprio mitico anche come personaggio nelle cose belle che ha fatto, anche nelle sue cadute, insomma nella sua complessità umana, per essere certamente un personaggio letterario di straordinario fascino, sicuramente per lei, con tutto rispetto, insomma un po' più dietro da questo punto di vista, ma ancora tempo. Ma io voglio farvi proseguire nel parallelo, a parte che scrive un amico un WhatsApp chiedendo di non bestemmiare, paragonando Chinaglia a Pelle. Infatti l'abbiamo detto, è un gioco, ho chiesto perdono addirittura al diretto interessato nell'alto dei cieli. Più di così non posso fare. Ma per proseguire nel parallelo, Pelle ha chiuso ieri con la nazionale? No. Chi è che mi risponde? No, non ha chiuso con la nazionale, come non ha chiuso Benzema con la Francia, che pure ha fatto cose un po' più gravi rispetto a quelle di Pelé. Non ha chiuso, magari si fa furbo, come avrebbe detto mia mamma. Magari ti fai furbo una volta, pensi alle tue cose, abbassi un po' la crestina e poi sei un buon giocatore, magari torni. Nemmeno Balotelli ha chiuso con la nazionale, figurarsi. Ma esatto, ma no, assolutamente. Però è, secondo me, un atto di personalità da parte di Ventura. Sì. Perché comunque la trasferta in Macedonia non è una trasferta scontata, perché comunque Pelé è un giocatore che teoricamente è il titolare di questa squadra, e quindi è una forza per la quale decidiamo di fare a meno, è una possibilità, quantomeno un'alternativa della quale l'allenatore decide di fare a meno per dare un segnale a lui e a tutti gli altri. E io credo, risentivo adesso la dichiarazione, insomma un risultato, dice Ventura, che ci fa capire quello che possiamo fare. Secondo me è esattamente questo, in qualche modo parlava anche di se stesso, perché poi comunque Ventura, l'abbiamo detto mille volte, è certamente un signore del calcio italiano con una solida esperienza, però ieri ha giocato, probabilmente ha vissuto dalla panchina la partita più importante della sua vita, e questa partita, ribadisco, insegna che noi siamo più deboli di loro, ma che con lo spirito degli ultimi 20 minuti possiamo metterli in difficoltà, e forse quello spirito è mancato prima per prudenza, perché per carità, sullo 0-0 forse sarebbe stato anche folle provare a giocarsela in maniera più con più personalità e con più coraggio contro la Spagna, sarebbe stato un rischio inutile, però insomma sta di fatto che alla fine, quando abbiamo messo sul piatto delle motivazioni extra, uno spirito extra, una mentalità diversa, li abbiamo messi in difficoltà. Sì, io non voglio insistere, io ricordo i primi due palloni all'Europeo d'Italia-Spagna, due palloni recuperati sulla tre quarti della Spagna. Ieri per i primi tre minuti credo che non abbiamo toccato il pallone, ma fisicamente non l'abbiamo toccato, Maurizio. Ma è stata una cosa imbarazzante, per più di metà partita. Io non ricordo sinceramente, ne ho viste tante, ci sarebbe bene anche un ahimè, però no, perché ahimè sono contento di averne viste tante, perché comunque mi sono proprio divertito tutti questi decenni miei, però io non mi ricordo sinceramente una nazionale nella propria area, giocando in casa, tra l'altro una qualificazione, ma nemmeno, io me la ricordo Italia-Brasile del 70, pensa un po' che roba, nemmeno contro Pelé, altro che Pelé, nemmeno contro Pelé eravamo così schiacciati. La Spagna è una squadra Vanesia, è una squadra di narcisi che ha perso un'occasione gigantesca e se ne rammaricherà, perché i narcisi qualche volta possono anche lasciarci le penne, magari non contro di noi al ritorno, magari in qualche campo o campaccio, la butto lì in Albania dove nessuno passeggerà, però al di là di questo la nazionale, avete cominciato con Conte, un gioco naturalmente la nostalgia, ma la cosa veramente agghiacciante è stata la partita del primo tempo, poi però certamente qualcosa è successo a conferma che non è che siamo proprio gli ultimi al mondo, ma per 45 minuti abbiamo giocato come se lo fossimo, paralizzati nei centri nervosi, spaventati, tutti i palloni scappavano, non si può giocare in quel modo e lo sanno anche loro. E questo è grave, perché poi è stato anche un atteggiamento quasi pleistocenico, cioè sembrava di essere tornati davvero agli uomini delle caverne, no? Con le sì, clave. Non era, che, non era che nemmeno questione palloni, di catenaccio, stata, gioco all'italiana. No, era no, è stato un primo tempo preistorico. Speriamo di aver fatto tutto ieri, cioè di aver pagato ieri lo scotto e di poter girare pagina. Gli amici da casa sono scatenati. Dopo leggiamo anche tanti messaggi. Io però coinvolgo anche Maurizio Crosetti nel rispondere a chi ci ha chiamato. 800 24 00 24, Alessandro da Napoli. Sì, salve, buongiorno a tutti. Eccoci, buongiorno a te. Beh, dai, io devo essere sincero, la nostalgia di Conte no. Diamo una mano adesso a Ventura, che sta in nazionale, comunque una certa esperienza, come dicevi te. Adesso l'unica cosa da fare sono i giocatori. I giocatori devono dimostrare di essere in nazionale e non pensare a quello che ha fatto Conte. Oggi c'è Ventura e rimaniamo sul passo di Ventura. Poi, ripeto, tutti i giocatori che stanno in campo devono lottare per la maglia, per la nazionale, per l'Italia. Questa è la cosa più importante. Per quanto riguarda Pelé, che sì, sento il discorso di prima, non bisogna né perdonare né strammatizzare quello che ha detto. Quello che ha fatto, anzi, diamoci un'altra possibilità. Se poi, magari tutti ormai nella vita tutti hanno sempre una seconda possibilità. Proviamo, magari il giocatore cambia. Sì, proviamo, come Paradelli, magari che sta cambia. Sta bene quello che sta facendo lì a Nizza. Però credo abbia ragione Pier quando dice, insomma, il segnale andava dato. Poi Pier, siamo tutti d'accordo. Adesso c'è Ventura e facciamo gruppo con Ventura. Quel sentimento lì a me rimane. Sì, ma guarda, io ti dico, non riesco a farmelo andare via. Ricorderai benissimo che nell'estate in cui poi Conte lasciò la Juve, noi lungamente parlammo della possibilità di Conte in nazionale. Io ero fra i più entusiasti, perché io credo che gli allenatori eccezionali, gli allenatori con qualcosa in più, con un X Factor, faccio un assist ai miei amici di Sky, quelli con un X Factor certamente hanno una qualità, che è una qualità importante anche a livello di nazionale, che possono anche fare la differenza nella competizione breve, possono fare anche la differenza negli stage una volta ogni due mesi, nelle sessioni di allenamento ogni tanto, cioè quella comunque è una qualità e Conte l'ha dimostrata veramente all'europeo. Detto questo, ribadisco che stiamo parlando di partite, di singole partite. Allora, già gli ultimi 20 minuti sono diversi dai primi 70, sono diversi perché improvvisamente la squadra ha preso il coraggio e perché la partita è uscita dal canovaccio tattico del al quale ci avevano. Io ho visto ieri veramente anche del miedo, della paura, miedo scenico, come quello che c'era una volta quando andava a giocare il Bernabeu. Cioè, ieri eravamo imbambolati, eravamo una squadra che era consapevole della propria inferiorità e che nei primi minuti ha capito che l'inferiorità era reale e ha fatto il possibile per portare a casa la pelle. Poi negli ultimi 20 minuti, dopo il gol dello svantaggio, improvvisamente si è liberata, non aveva più nulla da difendere, non c'era più nulla che potesse essere gestito e controllato, e ha messo in campo uno spirito diverso. Poi le soluzioni sono state efficaci. A momenti la vincevamo anche. Capito? Il vero paradosso è che, premesso tutto quello che ha detto Maurizio, che è indiscutibile, cioè ci hanno sfondato, ci hanno dominato, però il vero paradosso è che ci hanno dominato, però se guardiamo gli episodi arbitrali abbiamo qualcosa da recriminare. Sì, momenti la disastro, vincevamo e il gol l'hanno fatto su un errore del più insospettabile, perché Buffon fa un errore così ogni 5 anni, l'ultimo era stato Juve-Lecce con Conte in panchina 5 anni fa. Cioè, quindi nonostante questo massacro dal punto di vista tecnico e tattico degli spagnoli, poi è una partita dove addirittura potremmo recriminare. Questo è un bel paradosso. Siamo quasi in borsa, Gianluca da Torino lo prendiamo dopo la borsa. Voglio chiedere per chiudere a Maurizio Crosetti cosa deve cambiare da qui a domenica. Cioè abbiamo sentito, qualcuno l'ha tenuto fuori per farlo riposare, Belotti è piaciuto, è andato via Pellè, probabilmente sarà titolare, magari cambiare il modulo, cosa immagini che faccia? Ma io immagino il cervello di Verratti, indispensabile, immagino Immobile e Belotti, perché hanno svoltato loro, ieri sera la partita l'hanno cambiata con la loro agilità, soprattutto Immobile in una forma, ma anche Belotti in questo momento, forse il migliore attaccante italiano, è Immobile in una forma incredibile, e poi soprattutto non avendo di fronte lo spauracchio, no? Il fantasma, il babau, non andremo a letto con la paura dell'uomo nero, e quindi potremo forse, speriamo, giocare in scioltezza, una partita che non è facile, ma che non dovrebbe avere le complicazioni neurovegetative. In Macedonia ieri ha vinto Israele, per cui insomma coraggio possiamo farcela anche noi, dobbiamo farcela. Avanti Savoia. Grazie Maurizio. Ciao, ciao, ciao. Grazie Maurizio Crosetti. 800 24 00 24. Pier, c'è la borsa e poi ripartiamo da qui. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia, pigia il coso rosso, grazie. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Ho sbagliato perché sono andato inizialmente con l'idea per calciare dritto e lungo, poi il loro attaccante era proprio in traiettoria dritto a me, alla fine ho cercato di cambiare per allargare il passaggio e buttarla in fallo laterale, e questo cambiamento subitaneo ha fatto sì che facessi questa cavolata. Fatto io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa, su questa amicizia nuova pace sì, rosa, perdono. Quando prendi gol è normale che l'atteggiamento deve cambiare, anche perché prima eravamo abbastanza rinunciatari, quindi abbiamo subito cambiato registro. L'infortunio neanche lo commento, insomma, ogni tanto è giusto anche che sbagli il più forte portiere della storia, altrimenti sarebbe una macchina e quindi lui è il più forte portiere della storia, ma è una macchina, ci può stare, succede una volta ogni non so quanti anni, sarebbe meglio successo con la Juve piuttosto che con la Nazionale quando ci sto io, però va bene. Capita anche ai migliori di sbagliare. 800 24 00 24. Un amico scrive: Enzo da Milano, siamo onesti, Ventura non è da Nazionale, ripeto, il problema non è Ventura, almeno secondo me. Poi io non riesco a capire perché i giornalisti difendono sempre i vecchietti e quelli che non ci sono. Ho ancora nostalgia di un allenatore che con tanti giocatori buoni faceva il 3-5-2. Poi il bicchiere mezzo pieno perché siamo riusciti a pareggiare senza Verratti, con Parole Montolivo in mezzo e con Belotti in panchina. E poi chi ricorda i fischi sull'inno spagnolo, che insomma anche ieri non ci siamo fatti mancare, ma anche gli applausi che hanno colpito i fischi. Gianluca da Torino, Gianluca. Buonasera. Eccoci. Buonasera. Allora, il problema non sarà Ventura, come dice lei, però io Ventura lo seguo da un po' perché sono tifoso del Napoli, anche se abito e vivo a Torino. E stava in Lega Pro con Napoli, e ha giocato, ha fatto il Bari, ha fatto il Torino, gli mancano sempre 2 centesimi per fare un euro. E poi vorrei capire come si fanno a lasciare Verratti e Candreva in panchina, abbiamo pochissimi giocatori tecnici e li lasciamo in panchina. La spiegazione in parte l'abbiamo sentita prima, c'è una partita fra 72 ore e in un certo senso si fanno anche delle scelte. Verratti non stava benissimo, no? Verratti lo sa benissimo, e altrimenti insomma penso che avrebbe giocato titolare, spero che avrebbe giocato titolare, perché Verratti rappresenta, e questo sono d'accordo con l'ascoltatore, dal punto di vista tecnico una delle nostre armi irrinunciabili. Cioè, se l'Italia avrà la possibilità di uscire dalla crisi o comunque dall'appannamento degli ultimi anni, proprio come classe calcistica, lo dovrà Verratti. Verratti è il giocatore che ci può far fare il salto di qualità. Io, molte delle speranze dell'Italia secondo me sono legate a lui, che Andrea l'ha dimostrato mille volte, quindi la logica della turnazione ci sta. Tutte le partite sono importanti, perché questa chiaramente, se vuoi arrivare prima nel girone, deve essere una gara di perfezione, di regolarità, quindi un pareggio in Macedonia così come un pareggio in Albania per gli spagnoli già peserebbe tanto. Poi l'Albania è l'unica delle squadre rivali con le quali si può anche pensare magari di cedere un punto, perché secondo me è una buona squadra ed è in testa al girone in questo momento. Ma cioè, in generale io non penso che Ventura sia scarso, e mediamente gli allenatori della Nazionale non sono i migliori allenatori che ci sono in giro. Cioè, non Mourinho, Guardiola, Ancelotti non allenano Nazionali, quindi da questo punto di vista la scelta di Ventura è una scelta in linea con quella delle altre Nazionali. Non credo che Ventura sia peggio di Lopetegui, tanto per fare un esempio, o di Löw o di altri allenatori, di Klinsmann o di altri allenatori che sono stati in questi anni. Parlo come caratura, solitamente sono scelte che sono fuori dal giro dei top. Conte che per una ma di fatto Conte veniva contestata la scelta della federazione, perché se tu prendi un allenatore top lo devi pagare con uno stipendio top. Guido da Viterbo, Guido. Ciao, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io volevo dire solamente una cosa, che questa sentenza contro Pelé è proprio l'italiana, cioè è proprio esagerata. Non c'era bisogno di arrivare a tal punto, no? Cioè, no. Si prendeva il giocatore e si diceva: guarda, non fare così, la prossima volta praticamente è probabile che esci dalla nazionale. Ma qui è come il marito che si taglia appena per far dispetto alla moglie. Cioè, facciamo a meno di un giocatore fantastico, perché è fantastico. Ieri praticamente non ha preso la palla, non è stata colpa sua, quindi praticamente trovo e credo che era anche nervosito per questo. In più viene buttato fuori dall'allenatura senza motivo, perché non credo. Io ho giocato a pallone, ho giocato nelle squadre. A me sembra che Immobile e Belotti non abbiano fatto poi malissimo. Sì, cioè, Pelé è un giocatore fantastico. Pelé per me è un buon giocatore, ha dei numeri nazionali pazzeschi. Pelé è un giocatore fantastico, mi fa pensare a un parente di Pelé all'ascolto. Lo dico con affetto, è una battuta. Pelé è un buon giocatore, a me piace secondo me più di quanto piaccia alla media nazionale, e secondo me ci sono state delle critiche eccessive nei suoi confronti. Posso anche essere parzialmente d'accordo che ci sia una componente, diciamo così, un po' di spettacolarizzazione in questo provvedimento, però Pelé è un giocatore fantastico. Pelé è un buon giocatore, è un buon giocatore che avrebbe fatto un po' in Macedonia, magari non dal primo minuto, proprio una logica di formazione rispetto al match contro la Spagna. Ventura prende dare un segnale eclatante, perché sta costruendo un gruppo e sta costruendo delle regole di disciplina. Luis Enrique, che poi qualcosa ha vinto in carriera, mi ricordo che a Roma veniva anche fischiato perché scuse De Rossi in un Atalanta-Roma, ci fu il caso Osvaldo dopo Fiorentina-Roma. Per un piccolo ritardo alla riunione tecnica. Ecco, quindi voglio dire, sono segnali che vanno dati. No, poi c'è anche chi ti dice l'esatto contrario. C'è anche chi dice che invece altri allenatori che chiudono... L'importante è avere carisma. Quindi se questa cosa qui, se questo provvedimento qui è utile a Ventura per far capire che all'interno del gruppo ci sono regole di un certo tipo, che bisogna cambiare registro, allora bisogna un po' fidarsi, secondo me, di questo provvedimento, perché nessuno di noi, purtroppo, a me piacerebbe da morire, si allena con la nazionale e vive l'atmosfera, e quindi è difficile capire che questo provvedimento avrà effetto oppure no. Sì, però se porterà qualcosa. Saluto Nando Orsi, ciao Nando. Ciao, buongiorno abbiamo, a voi. Che abbiamo convocato in qualità di portiere. Per capire, grazie, insomma, che spiegazione. Grazie della fiducia. La spiegazione. Anche quella di sex symbol, però. Anche, grazie per lui. Praticamente la replica, la replica di Buffon. In pratica, portiere, sex symbol. Vabbè, ma insomma. Vabbè, quello di Buffon. Aiutaci a capire perché. Ma insomma. No, ma non si. Cioè, fa un errore. Allora, io parto dal concetto che i portieri devono essere bravi con le mani e invece con i piedi. Perché per fare 3 o 4 rinvii a partita, mi sembra esagerato questo modo di pensare adesso che i portieri, soprattutto in questo periodo, quando vai a domandare di un portiere, la prima cosa che ti domandano: ma com'è con i piedi? Ma a me mi interessa poco, io voglio sapere com'è con le mani. Detto questo, è un errore che si può catalogare come uno dei pochissimi errori che Buffon fa in carriera, e quindi può succedere, può accadere. D'altronde, se sbaglia un giocatore, liscia la palla e dietro ti possono recuperare. Sbaglia il portiere, e d'altronde è la dura legge. Però Buffon non è che va fuori da queste regole. Lui è più bravo degli altri perché sbaglia meno. Quando sbaglia, siamo qui a giudicare che invece lo sbaglio può essere perché è vecchio. Invece, secondo me, sbaglia perché è come sbagliano tutti quanti gli altri. Ha sbagliato il timing sulla palla, ha pensato tante cose. Quindi è sbagliato, ma insomma. Tra l'altro abbiamo una lunga tradizione di papere di grandi portieri nazionali. Questa mattina ci siamo divertiti in redazione, ripartendo da Zoff che prese i gol da 40 metri nel 78, sì, Olanda, Giovanni Olanda, Galli contro Maradona nell'86, Italia-Argentina, Zenga nel 90, Pagliuca nel 94. Io mi ricordo un altro portiere, un grande mio amico, che è stato Luca Marcheggiani, che a Cagliari fece un errore in una partita con i piedi e fu escluso dalla titolarità e a vantaggio di Pagliuca, perché Marcheggiani era il titolare. Fece un errore in questo modo e fu escluso. Che vuol dire? ma succede. Però poi dopo vai a vedere nella carriera di Marchegiano, di Buffon, mi ricordo che Buffon fece un altro errore con i piedi a Torino contro il Lecce al 90°, sbagliò uno stop. Ma non fa neanche statistica, due errori in una carriera non fanno statistica. No, ma soprattutto, Nando, mi sembrano errori, questo secondo me quelli di gol presi da 40 metri da off o il famoso pallonetto di Maradona con Giovanni Galli sono situazioni un po' diverse, perché no, il pallonetto di Maradona l'ha fatto a me, a Giovanni Galli l'ha fatto in nazionale la manina di Galli che si ritrae con questo pallone beffardo, bisogna avere una certa età, una filosofia del portiere, guarda, cioè soltanto chi ha fatto il portiere può capire una palla così, perché quella è un gol preso quando il portiere viene in avanti, Maradona anticipa il tiro, Galli sa che non ci arriva su quella palla, quindi e poi dopo gli altri lo vedono e dicono ma poteva buttarsi, però quello è un gol veramente complicato da andare a parare, cioè se tu fai così fai una gran parata, se ti fanno un gol dicono che è colpa tua. Esatto, il tuo contro il Napoli lo ricordiamo, è stato di fatto una forma di partecipazione all'arte, perché quel gol lo vediamo ancora lo vediamo continuamente, è una delle cose più belle che ha fatto Maradona nella sua carriera, un gol praticamente da 40 metri tutto per centrare, quindi io ti considero insomma diciamo volevo chiedere a Diego i diritti d'autore, esatto, perché sono tutti i giorni in televisione e sui DVD, quindi mi sembrerebbe giusto che avere i diritti. Noi tutti i giorni ti ringraziamo per quello. Aspettate perché c'è il traffico. c'è il traffico, torniamo subito dopo. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Abbiamo scatenato tutti i biografi di Buffon, che ci ricordano le papere contro Lecce, una papera in Chievo-Juve stagione 2001-2002. Un amico dice che siamo usciti nel 2014 per colpa delle papere di Buffon. Io onestamente non ho questa percezione. Per chiudere invece con Nando Orsi, sei ottimista dopo aver visto l'Italia ieri sul nostro futuro a breve termine, perché poi 18 mesi, fatto che le nazionali insomma si trovano in 2-3 mesi, in realtà è come dire dopodomani. Beh sì, mi sembra che la programmazione della federazione sia un po' come quella degli allenatori, perché se tu gli fai 2 anni di contratto è ovvio che il risultato lo vuoi nell'immediato, e quindi è ovvio che quasi sono costretti a cercare di rimanere nell'ambito dell'allenatore precedente, e quindi si fanno pochi cambi, c'è poca disponibilità a mettere dei giovani che secondo me in questo momento farebbero pure comodo, ieri Romagnoli, poi adesso con la convocazione di Benassi, però insomma mi sembra che si potrebbe far meglio. È ovvio che bisogna prendere la qualificazione, bisogna avere la qualificazione per la Russia, e Ventura sta facendo questo, si sta affidando dei suoi, della vecchia guardia. Il giro non è complicato, però la Spagna devi arrivare prima per forza. Quindi questo pareggio è secondo me un mezzo passo falso, perché ci non giochiamo è più la tutto di probabilmente tempo. Il 2 settembre 2017 secondo Madrid, dove ci manderanno? Secondo me sì. Data tra l'altro in Fausta per le tradizioni precedenti delle nostre nazionali. Grazie Nando. Ciao ragazzi. Ciao. Pier, ti devo far sentire una cosa incredibile. La storia di questa giornata di qualificazioni mondiali in tutto il mondo. Relatelo, signor Martinez. Impressionante, no? Mira. La gente della camiglia si apura, los policías detrás de la camilla. Incredibile. Ener Valencia. Questo è l'audio della telecronaca di Ecuador-Cile. Siamo a 10 minuti dalla fine. Ener Valencia, giocatore dell'Ecuador e dell'Everton, cade per terra, si finge mezzo morto, ossigeno, barella e tutto. A bordo campo c'era la polizia che lo doveva arrestare perché deve 17.000 euro di alimenti mai pagati per la figlia, e Ener Valencia ha finto un infortunio gravissimo, si è fatto portare in ambulanza in ospedale con la polizia che gli correva dietro a bordo campo. Siamo noi non diamo giudizi su Ener Valencia, ovviamente, insomma, però è meraviglioso, è la no? No, è una cosa proprio da... È una cosa meravigliosa, dai, una vicenda letteraria e credo che al di là di tutti gli aspetti giuridici importantissimi, ovviamente, nel merito del quale non entriamo, no, possiamo farci un sorriso per il plot come direbbero gli americani, per la sceneggiatura, perché la sceneggiatura è Gli hai sentiti i tuoi colleghi ecuadoregni? Incredibile, sì, sì. È una vergogna, è una vergogna. Arturo da Modena. Arturo. Pronto? Eccoci. Grazie di avermi richiamato. Allora, io contrariamente ai vostri opinisti o a voi, la penso diverso sulla partita di ieri sera della Spagna. Io penso che ha perso la partita, è stata la Spagna che ha perso la partita. Perché con tutto quello che hanno fatto, passaggi, giocano bene, giocano di qui e là, di destra e sinistra, però cosa hanno fatto? Niente. Se non c'è l'errore di Buffon, non avrebbero fatto niente. E poi se aggiungiamo il primo fallo non fischiato Diego Costa, l'ammonizione che ha avuto successivamente, e quando ha tirato la palla via non è stato riammonito, quindi le gran gaffe le ha fatte l'arbitro in tutti i sensi, cioè, e poi voglio dire, se poi calcoliamo, no, che questi giocatori sono giovani, non sono il carisma che ha la Spagna, hanno fatto i miracoli ieri sera. Sì, però anche, anche la Spagna sta cambiando tanto. Ieri c'era quasi mezza squadra diversa rispetto all'europeo, Pierre. E sono evidentemente più avanti di noi, hanno più qualità di noi, ma questo lo sappiamo dalle giovani. Hanno più qualità di noi, adesso insomma, se non ci saranno grandi sorprese, anche se io mi aspetto anche solo statisticamente che qualcuno perda punti. Cioè io non credo che si arriverà, che tutti vinceranno tutte le partite con Albania, Israele. Noi tifiamo per domenica, tifiamo per il nostro amico De Biasi, certo, Albania, Spagna. Biasi, quasi a prescindere, e domenica proprio facciamo ci scateniamo e andiamo a vedere la partita quasi. Però insomma, sicuramente bisogna andare a vincere in Spagna, questo è abbastanza oggettivo, no? È abbastanza scritto, se non dovessero succedere delle cose impreviste, quindi non è un buon risultato in assoluto. È chiaro che è un risultato che ci tiene ancora in piedi. Ma è evidente da quello che ha detto Ventura che lui adesso si aspetta un passo avanti. Anche lui all'inizio di un ciclo con questa squadra, ieri l'ha vista imbambolata per 70 minuti, poi ha visto una scintilla e spera che questa scintilla possa essere utile. E torno all'esempio di Juve-Bayern, perché Juve-Bayern in maniera diversa, veramente me l'ha ricordata molto ieri sera, più per meriti del Bayern, non per meriti della Juve, però... Quello Juve-Bayern all'andata fu un massacro per 45 minuti. Partite che cambiano con un episodio, una scintilla. Grande reazione della Juve, e al ritorno abbiamo visto una partita completamente diversa dove la Juve ha dominato praticamente per 70 minuti. Quindi la speranza è che possa succedere qualcosa del genere, anche visto che manca un anno alla fine delle qualificazioni. Per cui, insomma, è un... Abbiamo 11 mesi per preparare Spagna Italia. Abbiamo 11 mesi. Invece Giuseppe da Taranto ha 30 secondi, perché poi c'è il GR. Giuseppe. Buon pomeriggio a voi, signori. La mia osservazione, l'Italia ieri ha giocato in 8 contro 11, perché Parolo, Eder e Pellè erano letteralmente assenti. Poi, per quanto riguarda il gesto di Pellè, io lo condanno più che come calciatore, lo condanno come uomo, mancanza di rispetto verso una persona come Ventura. Ma sì, ha sbagliato come uomo, non mi interessa il calciatore, in un gruppo sportivo c'è anche da considerare l'educazione. Grazie, per me Giuseppe. Deve essere messo fuori dalla nazionale. Ma infatti l'hanno messo fuori, poi lo ripescheranno anche. Mi viene in mente siamo in chiusura, sì. Quel pezzettino di Alta Fedeltà in cui il protagonista racconta di un suo tradimento alla moglie, efferato con un'amica della moglie, e dice sì, sono stato una merda, ho fatto schifo, eccetera, eccetera. Bene, adesso pensate alle 5 cose più spregevoli che avete fatto voi nella vostra vita e vedete se siete in grado di tirarmi. Io, è un po' questo ragionamento, lei ha sbagliato, per carità, ha sbagliato in diretta televisiva mondiale, bisogna portare rispetto agli allenatori. Ha sbagliato, questo, paga e poi speriamo. Ho sbagliato anch'io qualche volta, ho fatto anch'io, voglio dire... Non è chiaro se è un criminale, non è un criminale, ha fatto un errore ed è anche giusto che venga punito per dare l'esempio a lui e agli altri, però insomma adesso non è che Pellè è un delinquente. Cercheremo di non impiccarlo, Pier. Ci sentiamo domenica. Dai. Ci sentiamo domenica dalle 17 alle 19 e torniamo invece subito dopo il GR delle 15. Parliamo... Ragazzi, c'è una conferenza stampa straordinaria di Sabatini che ha spiegato il perché del suo addio alla Roma. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Anita, Maluma, Brasil, Colombia. Marchi rientra, palla dentro, Gabriel Jesus! Che bellezza! È il 4-0 del Brasile! Cavani in area di rigore, Cavani! 14 secondi ed è già 2-0! Pacca, pallone di ritorno per Cardona, Cardona col tocco sotto, Cardona! Al 91esimo! Sabaleta avanza, va dentro da Higuaín, il Pipita fa 31 in nazionale. Breve riassunto sonoro della nottata in Sud America, dove a metà del cammino c'è una grande nazionale che rischia di non andare ai mondiali, ed è il Cile, che in questo momento è settimo in classifica e ricordiamone passano 4, poi la quinta va a fare lo spareggio e quasi sempre la quinta sudamericana va ai mondiali. Però la quinta in questo momento è l'Argentina, con 16 punti come Ecuador e Colombia, mentre il Cile di Vidal, di Medel, che in questo periodo è squalificato, il Cile ha 11 punti. Ha perso ieri 3-0 contro l'Ecuador e tra un paio di giorni gioca contro il Perù, che è dietro ma a questo punto ha le spalle al muro, non può più sbagliare, altrimenti rischia di saltare, campione 2 volte di fila della Coppa America, rischia di saltare i mondiali del 2018. 800-24-00-24. Tra poco vi facciamo sentire Sabatini, eh? Fernando dalla provincia di Ascoli. Buonasera e grazie di avermi richiamato. Grazie a te. Volevo intervenire riguardo alla nazionale molto brevemente. Premetto che sono un grandissimo tifoso della Juve, però detto questo credo che ormai bisognerebbe un pochino cambiare un po' l'età dei giocatori, cioè nel senso che la difesa secondo me potrebbe essere sostituita piano piano da alcuni altri giocatori. Alla fine volevo dire solo questo: si gioca con una mentalità vincente, giocando con 3 attaccanti, con il terzo Candreva, 4-3-3 in nazionale, con Verratti, De Rossi e Montolivo al centrocampo. Io però, Fernando, non credo sia un problema di modulo, quello legato alla mentalità. In Francia giocavamo col 3-5-2 e mi pare, correggimi se sbaglio, che la nazionale di Conte avesse mentalità vincente, almeno l'ho avuta in quelle 3 settimane lì in Francia. Qualcuno ricorda, sì, è vero, che ha avuto problemi prima, ad esempio la partita San Siro con la Croazia all'inizio del girone non è stata certamente una buona partita, però è anche vero che lì stava sperimentando, Conte stava cercando un equilibrio, Ventura ha preso e ha fatto la fotocopia di quella nazionale, la differenza sta nell'intensità. Umberto da Parma, Umberto. Sì, buonasera, grazie di essere stato convocato. No, volevo intervenire sul discorso del giocatore nostro Pellè, che ormai è stato detto tanto, però effettivamente non possiamo più sopportare questi comportamenti in una nazionale di calcio. Il signor Ventura, che è un grandissimo allenatore, non ha fatto altro che togliere il signor Pellè perché non era in serata, non ha fatto niente. Tant'è che si è visto che appena è stato sostituito abbiamo cambiato volto al gioco, giusto? Sì, e questo si permette di uscire. È anche vero che ha giocato l'ora sbagliata per lei, ha giocato l'ora in cui l'Italia ha avuto quella partita e quell'approccio di cui stiamo parlando. Immobile e Belotti sono stati bravissimi, ma hanno anche giocato nel momento in cui spalle al muro gli altri hanno cambiato passo. Prego però, Umberto. Eccetera eccetera, ma comunque fino a quel momento il signor Pellè praticamente era in una serata negativa, ci può stare, sì, ma non ci può stare la maleducazione con la quale lui ha messo in difficoltà l'Italia. Non si fanno queste cose, bisogna dare dei segnali, e hanno fatto bene, hanno fatto bene. E il signor Ventura ha fatto molto bene, però vi stiamo chiedendo semplicemente di non crocifiggerlo, ha fatto benissimo mandarlo a casa, a Skopje giocherà probabilmente Belotti e poi vediamo, e poi la valutazione dovrà tornare a essere tecnica. Angelo Mangiante, collega di Sky, che conosce profondamente le questioni relative alla Roma. Ciao Angelo, buon pomeriggio. Eccoci. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Allora, vi faccio sentire 3 cose veloci. Sabatini ha parlato credo per quasi un'ora. Allora, sul grande rimpianto di non aver vinto lo scudetto. L'idea di non essere riusciti a vincere uno scudetto mi perseguita, mi terrà compagnia per tutta la vita. A meno che questa squadra non faccia qualcosa di imprevedibile in questo momento, perché questa squadra presente. Sarà la mia squadra quando perderà e sarà la mia squadra anche quando vincerà. Sono parte in causa, sono in quota con tutto quello che succederà. Poi su Totti e il peso che ha sull'ambiente. Totti costituisce un tappo. Lo costituisce perché lui porta una luce abbagliante che io avevo definito come luce declinante, invece considera essere una luce abbagliante, il sole allo zenith, e naturalmente oscura tutto un gruppo di lavoro, anche perché la curiosità morbosa che si riferisce a ogni suo fare, dire, in ogni sua espressione di gioco e fuori dal campo, comprimono fortemente la crescita di un gruppo di calciatori che comunque deve sempre essere subordinato a questo. E per chiudere la questione giornalisti, perché lui ha detto che non voleva attaccare i giornalisti, ma poi Angelo Mangiante ci confermerà, insomma, ne ha lanciate di bordate. Errori non fatti e sono stati puntualmente rimarcati, perché sugli errori non avete mai derogato, l'avete sempre giustamente denunciati. E però io vedo che c'è la tendenza a far diventare Franco Baldini un massone dannoso, un Mauro Baldissoni un arrogante avvocato, un probabile giocatore di calcetto, così così, e comunque massone anche lui. Adesso sta arrivando Umberto Gandini, preparate un dossieraggio perché dovrete distruggerlo. Non vi sto accusando di niente, attenzione, domani non mi dite Sabatini se la prende con la stampa, io non me la prendo con nessuno. Angelo, noi non lo diciamo, vero? Non prepariamo nessun dossieraggio. Devo dirti, è stata una conferenza stampa magnifica. Ho avuto la fortuna in questi 5 anni di gestione Walter Sabatini di assistere a 2 conferenze stampa fantastiche. La prima quando si è insediato e questa come durata, siamo lì 1:15, 1:20, in cui anche oggi ha tirato fuori di tutto, ma questo passaggio, l'ultimo che ha fatto sentire, in cui poi è stato molto duro questo caso con chi lo aveva, secondo appunto Walter, accusato di fare tanto trading, tanto mercato in modo quasi frenetico per via delle commissioni, lui ha detto: perfetto, vediamoci domani in tribunale, io sono una persona onesta, ci sono tanti cialtroni, tanti mentecatti che invece non la pensano così, io domani vado in tribunale, chi vuole può sfidarmi lì, io poi non darò tutto in beneficenza, me li prenderò io questi soldi. Ah, pensavo dietro il tribunale con la spada come si faceva una volta, no? Ma senti, ma tu hai capito perché è andato via? Davvero? Perché poi lui oggi parla della la decisione, è un calciatore che sta facendo bene altrove, che ho perso, insomma, aiutaci a capire. Ma lui ha detto: sono cambiate le regole di ingaggio. Che cosa significa? Che di fatto è stato un po' limitato. Walter Sabatini vuole sentirsi il plenipotenziario della sfera sportiva. Lui è un direttore sportivo, ma in realtà è tutto, è un direttore generale, è un etrino, è quasi come Florenzi in campo. Il problema è che a un certo momento, lì secondo me il primo attrito è nato con la questione Garcia, quando Sabatini voleva tenerlo più a lungo possibile, invece Pallotta ha voluto fare un cambio che è stato quello che ha portato Spalletti, e da lì si è sentito un po' troppo sotto osservazione. E poi insomma mi pare di capire che la questione non si sia mai ricomposta, però la lettura che fa dell'ambiente romano, lui ha parlato anche, se non sbaglio, di rivoluzione culturale che ha provato a fare, che rappresenta il suo grande fallimento, cioè pensare alla vittoria quasi come normalità, non come qualcosa come evento da non prevedere. E non ha tutti i torti. Questo infatti lui ha rammarico appunto di aver vinto il mancato scudetto, ma lì ragazzi è capitato nei 5 anni dello strapotere della Juventus, come quando capiti nei 5 anni del miglior Federer, come quando capiti nel quinquennio del miglior Valentino Rossi o del miglior Alberto Tomba, eccetera, arrivi secondo. Questo. E sul discorso fallimento ha ragione. Lui ha raccontato in questa conferenza stampa molto romanzata, molto aulica, piena di toni duri, ma anche si è definito un etrusco residuale. Crusco residuale. No, io lo dico agli amici, è stata lunga, magari la gente non la vedrà, per carità, però è stata veramente da mettere in archivio. Sì, anche, insomma, anche piena di autocritica, si è definito un presuntuoso critico lui, però ha ragione sulla storia della rivoluzione culturale che vive come un fallimento, perché dice appunto qui si vince o si perde la stessa maniera, e dice io quando la mia squadra, la mia Roma perdeva non dormivo la notte, non riuscivo a somatizzare la sconfitta, qui vedo dei calciatori che si comportano allo stesso modo e quindi questa mancanza di mentalità vincente che non ha saputo creare in 5 anni il suo grande Crucio. Sì, da osservatore esterno, poi ti saluto, penso che quelle di Sabatini come parole siano una sentenza, mi ricordano alcune parole di Garcia che poi avevano diviso profondamente l'ambiente, fatto discutere, provocato anche una frattura con Pallotta, insomma ogni tanto qualcuno che da Roma passa lo dice e non cambia mai. Sì, è così, sembra quasi una battaglia persa questa, io però credo che abbia seminato, abbia creato e lascia comunque basi solide Walter Sabatini, se non altro perché al suo posto adesso arriva Ricky Massara, che è un po' una sua costola, e chi prenderà Walter Sabatini farà un grande affare. Non credo il Milan, ce lo chiedono da casa, ma no, credo che sia occupata definitivamente la casella. Esatto, Giovanni che andrà al Bologna. In realtà in cui magari avrà meno patemi d'animi, magari dormirà un po' più la notte. Potrà fare il suo calcio. Grazie esatto. Angelo. A te, un abbraccio. Grazie Angelo Mangiante, collega di Sky da Trigoria, Giuseppe da Arezzo. Giuseppe. Volevo fare una domanda su Conte. Sì. Ma se ho capito bene, lei rimpiange Conte sulla nazionale. Conte sulla nazionale. Ma cosa ha vinto Conte? Ma non ha vinto nulla. Io il concetto che esprimo è questo, che ritenevo a giugno che la nostra nazionale fosse fondamentalmente scarsa, cioè non fosse all'altezza delle altre. E però Conte, col suo modo di prendere le partite, con la sua intensità e anche con il modo in cui li metteva in campo e li motivava, per un mese ci ha fatto credere di essere grandi. La stessa nazionale, gli stessi uomini, perché ieri per 9 undicesimi erano gli stessi uomini, senza quell'intensità lì per un'ora hanno mostrato, credo in maniera chiarissima, la differenza, il gap che c'è oggi rispetto alla Spagna e rispetto a tutte le grandi. È in quello la nostalgia di Antonio Conte, cioè nella capacità di portare questa nazionale al di sopra dei suoi limiti. Poi, ripeto, non è nemmeno un problema di Ventura, il problema è che un altro come Conte in Italia in questo momento non c'è. Sandro da Genova, Sandro. Sì, salve, grazie per la convocazione. Io ho una domanda in merito alla sostituzione di Montolivo con Bonaventura, perché mi aspettavo l'ingresso in campo di Verratti, che tecnicamente per una sfida come quella con la Spagna avrebbe potuto sicuramente dare un bel cambio di passo a tutto il centrocampo, però ci ostiniamo comunque a tenerlo in panchina, che è secondo me una scelta scellerata, come quella di schierare calciatori che al momento in Serie A non trovano molto spazio, ma in nazionale, avendo fatto parte del gruppo di Conte, vedi Eder, comunque partono titolari. Sì. Poi in realtà, Sandro, è anche vero che tanti allenatori fanno scelte simili. Ad esempio Eder, che evidentemente negli ultimi mesi ha avuto un rendimento pessimo nell'Inter, quasi marginale, in nazionale ha fatto un buon europeo, Ventura punta su di lui, tatticamente un giocatore importante, quindi a volte ci vedono bene anche loro, gli allenatori intendo. Parliamo di Formula 1. È stata giornata mista per me, perché volevo vincere, non sono riuscito, però comunque sì, dopo di essere tirato fuori all'inizio di finire terzo mi è andata bene. Però è arrivata la telefonata di Sebastian per scusarsi di quanto è successo. Sì, si è scusato, sì. Che cosa ti ha detto, se può sapere? O... No, giusto, si è scusato, è bene così. Questo Rosberg alla vigilia del weekend di Suzuka, che darà risposte importanti per il Mondiale, risposte che oggi ha dato anche Arriva Bene. Maurizio Arriva Bene, facciamo sentire un passaggio, che è quello improntato all'ottimismo per il futuro, poi con Antonio Boselli di Sky, che ringrazio e saluto. Ciao Antonio. Ciao, ciao ragazzi. Analizziamo invece l'altra parte, quella dell'autocritica. Arriva Bene. Siamo un buon team, ce la metteremo sicuramente tutta, ma quello che a me piace di più di questa squadra è l'entusiasmo con cui si è iniziato lavorare, la determinazione, soprattutto il fatto che la Ferrari dell'anno prossimo sarà una Ferrari, sarà la Ferrari di tutti, non sarà la Ferrari di nessun fenomeno, sarà la nostra. Speriamo che sia una Ferrari che va più forte di quella di quest'anno, Antonio. Però ha fatto anche autocritica, arriva bene. Ha detto, dico con umiltà e amarezza, che abbiamo sottovalutato la forza della Mercedes. Quest'anno è il ritorno della Red Bull. Sì, è la prima guarda, volta. Ha detto cose molto vere, perché ha parlato della Red Bull, soprattutto che abbia sottovalutato e che abbiano sottovalutato la Mercedes, è evidente. Soprattutto con i proclami di questo inverno, vi ricorderete, con le vittorie che arriveranno, un mondiale che verrà conquistato dalla Ferrari, ma così non è stato. Più che altro Maurizio Arrivabene ha dimostrato grande onestà intellettuale quando ha parlato di una sottovalutazione della Red Bull, che per loro è stato un bagno di umiltà, perché è vero, sappiamo benissimo che la Mercedes è una corazzata che sta godendo ancora della scia di questa rivoluzione regolamentare del 2014. Era molto inaspettata invece questa Red Bull che è davanti in classifica costruttori e poi sta facendo un progresso impressionante, che era un po' quello che si aspettava dalla Ferrari. Ora non è che bisogna per forza andare ad analizzare le prestazioni di adesso della Ferrari per fare delle previsioni sul futuro, perché comunque adesso la Ferrari sta anche lavorando tanto sul 2017. Però è stata un'intervista importante, secondo me, perché è importante partire da delle verità anche dure per poi guardarsi in faccia e ripartire col piede giusto, anche nei confronti di Sebastian Vettel, parole importanti. Sì, ha detto credo che le persone si conquistino coi rinnovi. A proposito del contratto di Vettel, ha detto ha bisogno solo di concentrarsi sulla macchina, lui dà tanto ma alle volte si interessa un po' di tutto e invece deve focalizzarsi sul lavoro che deve fare, quindi un po' di critiche sì. C'è d'altro canto lo abbiamo visto nei risultati, perché poi uno può anche interpretare le prestazioni facendo tutta una serie di ragionamenti che però poi dopo si devono misurare e confrontare con i risultati. Cioè Sebastian Vettel ha fatto 98 punti in meno rispetto alla passata stagione, mentre Raikkonen ne ha fatti una trentina in più, quindi nei fatti il rendimento di Sebastian Vettel questa stagione è stato al di sotto delle aspettative. Poi che la macchina non sia competitiva, che Sebastian Vettel si senta probabilmente responsabilizzato, che questa eccessiva responsabilità che lui sente sulle sue spalle poi possa portare a degli errori di valutazione come quelli che abbiamo visto nelle partenze, quella su in Malesia, su tutti, fa capire come Maurizio Arrivabene sia anche, come dire, interessato a dire: Sebastian, devi pensare a guidare la macchina e non a sovraccaricarti troppe responsabilità rispetto a delle prestazioni che non arrivano. E questo secondo me è giusto, perché è quello che deve fare un pilota. Sappiamo anche bene che tante volte, specialmente nelle ultime stagioni, i piloti della Ferrari, mi viene in mente Fernando Alonso, in tante situazioni con il loro talento hanno anche portato a casa dei risultati magari migliori rispetto a quelli che potevano meritarsi con la macchina in quel momento. Però credo che sia stato punto di partenza questo di Arrivabene di oggi. Sì, è stato mettere qualche paletto esatto. Più in chiave futura, credo che in chiave di rilettura di questa stagione. Esattamente, lo penso anch'io che sia così. Ricordiamoci che l'anno prossimo ci sarà una rivoluzione dal punto di vista di regolamentare. Sappiamo anche che la Ferrari sta ancora cercando una propria identità, perché ci sono stati tantissimi cambiamenti nel corso delle ultime due stagioni, non ultima la sostituzione del direttore tecnico James Allison che è andato via a metà stagione, e quindi ci sono tante situazioni ancora da chiarire e da riuscire a mettere poi sulla carta come lavoro proprio anche in ottica 2017. Però credo che sia fondamentale per tutti partire da uno stato di cose di insomma anche dure di verità, però sono necessarie per poter crescere insieme, perché poi dopo ma anche per, evitare gli errori comunicativi fatti quest'anno, e che tu ricordavi, errori fatti da tutti, a partire da Marchione, non soltanto Arriva Bene, non soltanto i piloti, insomma tutti quelli che hanno raccontato che sarebbe stata una stagione vincente. Grazie Antonio. Grazie a voi. Buona grazie giornata. Antonio Boselli da Sky, che coprirà abbondantemente tutto il weekend di Suzuka. Abbiamo un minuto, riusciamo a fare Flavio da Bergamo. Flavio. Sì, buongiorno, eccoci. Grazie per avermi interpellato. Io volevo dire due cose. Una riguardo Pellè, che secondo me ha fatto benissimo Ventura a fare quello che ha fatto. Anzi, secondo me doveva durare anche di più la funzione, non solo un turno. Adesso vediamo perché... quanto dura. Per il momento è tornato a casa, poi vedremo. D'accordo, ma anche perché le spiego, io la vedo così, io ho un bambino di 7 anni che ha iniziato a giocare a calcio quest'anno, ha seguito tutti gli europei con me in televisione, per questi bambini, per i ragazzini, sono degli idoli calciatori, non c'è niente da fare, li imitano in tutto, quindi anche in questi purtroppo gesti poi diventa, lo fanno anche in Serie A, lo fanno anche in Nazionale, quindi figurati se non lo può fare un ragazzino. Hai perfettamente ragione Flavio. Ha fatto benissimo Ventura, perché solo attraverso questi gesti si impara qualcosa. E solo attraverso questi gesti si tiene anche poi un equilibrio dentro un gruppo e uno spogliatoio, che penso sia quello che premeva oggi a Ventura e alla Federcalcio, al di là dell'aspetto educativo di non mostrare che si può fare di tutto semplicemente perché si è arrivati. Grazie comunque, così come ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Noi torniamo domenica alle 17 e sarà la lunga vigilia di Macedonia Italia. Ciao. Have a nice day.